Si sente? Sì, tanto se non siamo troppi. Allora, buongiorno a tutti. Oggi cominciamo a entrare nel merito del nostro laboratorio. Prima di altre, do due comunicazioni tecniche. Quindi, la lezione di martedì prossimo è confermata sempre qui alle 10:30 col professor Giorgio Galli, quindi non ci sono problemi. E da oggi pomeriggio abbiamo le dispense pronte per gli iscritti, quindi voi l'avrete tutti cartacea. Però se dovesse mancare qualcuno o se tra i presenti ci sono esterni al laboratorio che vogliono leggere le dispense che noi prepariamo in preparazione alle lezioni, le potete trovare sul nostro sito che è www.laboratoriolapsus.it, dove abbiamo preparato una sezione dedicata solo al laboratorio, dove ogni lezione avrà una sezione dedicata. E quindi potete trovare tutti i materiali che noi prepariamo. Alla fine, quindi, raccoglieremo le firme di presenza per gli iscritti e vi distribuiamo, come ho detto adesso, la dispensa. Vi ricordo per gli studenti iscritti che le prime file sono riservate a voi, quindi se per caso siete retrocessi nelle vie dietro, la prossima volta non fatevi problemi perché i posti davanti sono tutti per voi. Prima di cominciare con la lezione, con la presentazione del relatore di oggi, lasciamo il microfono al professor Canavero che ci ha aiutato e sostenuto nell'organizzazione del laboratorio, che è stato molto gentile a venire qui stamattina. E tra l'altro ringraziamo anche il professor Valent che è seduto in platea, che anche lui ci sosterrà e ci aiuterà durante il laboratorio. Dovete dedicare solo agli studenti di Lapsus perché io sono venuto molto volentieri stamattina perché questa è la prima volta a memoria mia che degli studenti dell'università prendono un'iniziativa scientifica di questo genere. Loro molto lodevolmente avevano già iniziato con delle conferenze organizzate aperte a tutti gli studenti e nella prima metà di quest'anno sono venuti a dirmi avremmo l'idea di fare un vero e proprio laboratorio, cioè un ciclo di lezioni che potessero essere utili anche ai fini della carriera accademica con i 3 crediti. Ne hanno parlato con il preside, il preside ha detto che era molto contento e gli ha mandati. Poi sono venuti poi da me per, come dire, la copertura scientifica, ma non ne avevano bisogno perché avevano già preparato un programma molto bello con l'intervento di persone estremamente competenti. Quindi il mio compito è stato solo quello di approvare quello che avevano fatto e di ringraziarli per questa iniziativa. Nella situazione disastrosa e disastrata dell'università italiana di oggi, senza iniziative individuali di questo genere, fatte anche, come dire, con sacrifici economici, perché riuscire a trovare uno spazio in università era impossibile, quindi loro si sono anche dati da fare per trovare uno spazio esterno all'università, ma uno spazio esterno all'università costa e l'università non è in grado di pagare spazi esterni. Quindi non solo si sono sobbarcati il compito di organizzare il tutto, ma ci hanno anche messo dei soldi. Quindi il fatto che poi lì ci sia una cassettina è un invito a tutti a dare una mano. Ecco, tutto questo direi è un'iniziativa estremamente interessante, estremamente lodevole e poi di grande interesse culturale. Per il criterio con cui devono funzionare i laboratori, non si potrebbero far venire più di 25 persone, qui le iscrizioni sono state eccezionalmente portate fino a 30, tutti gli altri. Come sapete, possono venire ad ascoltare, ma questo non non avrà effetti sulla carriera accademica, perché solo i 30 iscritti, se frequenteranno fino alla fine, potranno poi avere i 3 crediti. Il criterio è questo perché è un laboratorio, quindi un laboratorio vuol dire che ci sarà una parte in cui gli iscritti saranno chiamati anche ad avere un ruolo diretto, sia non solo nell'apprendere quello che viene detto, ma anche in una partecipazione più attiva. Ed è ovvio che questo può essere fatto solo con un numero limitato di partecipanti. Però, visto che anche siamo in un luogo come questo, la partecipazione è aperta. Io non aggiungo altro se non ancora un ulteriore ringraziamento agli studenti di Lapsus e anche al professor Giannulli, che è il primo degli esperti sul tema che parlerà oggi. E non so se poi ci sarà una breve introduzione, come dire, biografica del relatore, e quindi lascio di nuovo la parola al vostro collega. Grazie. Dunque, niente, grazie ancora professor Canavero. Niente, adesso davvero entriamo nel vivo. Giusto due parole introduttive. Voi spero abbiate avuto modo di leggere la dispensa, quindi non la faccio lunga. Aldo Giannulli oggi si soffermerà non dall'inizio come la dispensa, da subito dopo la fine della guerra, altrimenti ci sarebbe bisogno di un ciclo di lezioni solo per quello. Si soffermerà insomma sulla parte più centrale, più corposa della materia che andiamo a indagare nel nostro laboratorio. Io spendo davvero due parole anche per ringraziare Aldo Giannulli, che è stato davvero anche per noi un grande aiuto nella strutturazione del laboratorio e nell'elaborazione delle lezioni, per la sua enorme conoscenza degli argomenti. Se avete avuto modo di leggere la sua presentazione, per una lunga serie di esperienze, Aldo Giannulli è uno degli storici che più ha approfondito le tematiche legate alla strategia della tensione, a quegli anni, allo stragismo, in vari modi, sia da storico che da perito per quanto riguarda per le procure e così via, e quindi insomma è uno dei massimi studiosi di questa materia. E insomma è un onore per noi poter iniziare il nostro laboratorio con una sua lezione. Ribadisco un'ultima cosa: come diceva il professor Canavero, siamo in un laboratorio, quindi vorremmo dividere la lezione in due parti. La prima parte, più appunto di lezione, di introduzione di Aldo Giannulli; la seconda, auspichiamo una serie di interventi vostri, un approfondimento anche magari sulla base dei documenti che vi abbiamo distribuito, insomma una lezione più partecipata e più interattiva tra voi e il docente. Grazie ancora, grazie Aldo Giannulli e buona lezione. Ma per inquadrare il periodo storico della strategia di attenzione, che va sostanzialmente dal 1960 al 1975, spiego il perché di queste date. Normalmente si pensa che la strategia d'attenzione sia stato un ciclo politico sviluppatosi in Italia coincidente con il periodo delle stragi, grosso modo compreso tra la strage di Piazza Fontana del dicembre del 1969 e quella di Brescia e dell'Italicus, che sono della primavera estate del 1974. In realtà la strategia di attenzione non è stata un fenomeno solo italiano e non è durata solo questi 5 anni, ma un periodo molto più lungo, triplo praticamente, e in Italia ha avuto il suo punto più alto, il suo punto di più acuto nel periodo stragista, e quindi va ricompreso in un ambito più vasto. Brevemente, per capire questo periodo è bene qualche cenno alla situazione precedente, che si determina dopo la fine della guerra, quando c'è bisogno di ricostruire un nuovo ordine mondiale che non è più per la prima volta essenzialmente un ordine europeo, ma è realmente un ordine mondiale. Le grandi potenze pilastro sono collocate al di fuori del territorio europeo classicamente inteso, anche se l'Unione Sovietica ha una parte europea, ma il contesto delle potenze europee era piuttosto quello dell'Europa occidentale centrale. In questo periodo si sviluppa quello che è definito come periodo della guerra fredda. E una brevissima riflessione va fatta proprio su questo tema. Guerra fredda, cos'è guerra fredda? È una metafora o è un nuovo tipo di guerra? All'inizio l'uso del termine guerra fredda sta appunto come figura retorica. Si usa la parola guerra per dire dell'estrema contrapposizione, del carattere particolarmente acuto del conflitto, però fredda perché appunto non combattuta. Ma è stato davvero questo la guerra fredda? Voi a volte avete sentito parlare di questo periodo come la terza guerra mondiale. C'è stata questa guerra mondiale? È stata una guerra diversa dalle altre o è solo un espediente stilistico quello di chiamarla terza guerra mondiale? Io sostengo che si è trattato di una guerra diversa, di qualcosa che ha cambiato il contenuto stesso dell'idea di guerra. Sono cambiate le concezioni cosmologiche. Noi tradizionalmente quando pensiamo a guerra pensiamo allo scontro fra stati sovrani in un periodo ben delimitato tra una dichiarazione di guerra e un trattato di pace, culminante in una serie di eventi decisivi chiamati battaglie, che sono combattuti da due eserciti regolari. E quindi la mente va a uno scontro fra carri aerei, per esempio. Questa è la guerra diciamo. Bene, questa è la cosiddetta guerra convenzionale, ma non è l'unica forma di guerra. Torneremo dopo a dire le caratteristiche di questa guerra, quali sono state. Intanto c'è da capire quali sono gli antagonisti. Gli antagonisti sono due soggetti che sono insieme grandi potenze militari, ma anche grandi punti di riferimento ideologico che attraversano i singoli paesi spaccandoli, perché sono due modelli di società: l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, paese classicamente liberale e liberista, l'Unione Sovietica scaturita da una rivoluzione socialista che però ben presto era evoluta in un modello di società particolarmente autoritario e burocratico. Gli Stati Uniti sviluppavano un disegno di dominio imperiale che era sostanzialmente un cocktail di tre elementi: dominio militare, condizionamento economico-finanziario degli altri paesi e degli altri soggetti, condizionamento ideologico. L'Unione Sovietica, dall'altro lato, invece sviluppava un progetto imperiale, ugualmente imperiale, basato essenzialmente sul condizionamento militare e sul condizionamento ideologico, molto meno sul condizionamento economico e finanziario. Direi essenzialmente ideologico quello dell'Unione Sovietica come disegno, essenzialmente economico-finanziario quello americano. Questi due schieramenti avevano avuto un periodo di confronto estremamente duro e avviato a uno scontro militare tipo convenzionale o addirittura nucleare in tempi molto brevi nella prima fase. Nella prima fase, dal 46 al 53, sembra che una nuova guerra sia imminente. È appena finita la guerra precedente, ma come disse il generale Patton, i politici intervengono sempre troppo presto, così che rimane sempre una guerra da combattere, una guerra ancora. Questa era la sensazione diffusa. E in questo momento la divisione bipolare del mondo è netta e non ammette eccezioni. Qui siamo nel periodo del bipolarismo perfetto. Ancora buona parte dei paesi africani, una parte dei paesi asiatici sono colonie di paesi europei, non sono quindi emersi come soggetti politici autonomi. La Cina ha realizzato una sua rivoluzione, ma è totalmente schierata con l'Unione Sovietica, anche se con delle riserve che però verranno fuori solo successivamente. Quindi siamo in un momento di reale divisione bipolare del mondo. Con le guerre di Corea e con l'invasione dell'Ungheria si rende invece evidente l'impossibilità di una guerra aperta fra le due grandi potenze. Una guerra aperta fra le due grandi potenze porterebbe immediatamente al conflitto nucleare, e il conflitto nucleare è quello che assicura la mutua distruzione di tutti e due i contendenti. È il cosiddetto fattore medio. Mutual assured destruction, mutua distruzione assicurata. Per cui la guerra inizia a subire, ecco come l'attesa di guerra comincia a trasformarsi in un conflitto di tipo diverso. Si assiste a una mescolanza fra quattro diversi tipi di guerra. C'è il confronto strategico nucleare fra le due superpotenze, che è la guerra virtuale. Guardate che le armi combattono anche quando non sparano, perché le armi hanno la caratteristica di avere un loro potere di dissuasione, quindi il possesso di un arsenale nucleare era di per sé un elemento che stabiliva rapporti di forza e quindi induceva a dissuasione l'altro. Mantenere questo equilibrio era la precondizione perché non si sfociasse in conflitto. E guardate qui il problema qual è? All'inizio l'idea e la suggestione è quella del first strike, del primo colpo decisivo. Chi attacca per primo bombarda l'avversario e lo mette in condizioni di non rispondere. I vari piani dell'esercito americano, che si sono succeduti rapidamente, a un certo punto arrivavano a prevedere 75-78 bombardamenti nucleari diversi di città sovietiche. Dei piani sovietici non sappiamo, ancora non sono emersi, ma in realtà nulla ci dice che non fossero simili. Quello che squilibrerà definitivamente la partita sarà la nascita dei sommergibili nucleari. Cioè, se voi capite che il sommergibile nucleare, del quale non si sa neanche dove sia, rende la tattica del primo colpo assolutamente inutile, perché la risposta comunque ci sarebbe. Da chissà quale posto, da quale scacchiere mondiale, ma la presenza di missili intercontinentali e di sommergibili nucleari azzera anche l'ipotesi, la suggestione di un colpo iniziale decisivo. È quello che viene definito l'equilibrio del terrore. Con la guerra di Corea prima, l'invasione della Ungheria dopo, si rende manifesta l'impossibilità di questo tipo di conflitto. E quindi il conflitto nucleare è conflitto essenzialmente virtuale, è conflitto di puro confronto a tavolino dei rispettivi arsenali. Arsenali e naturalmente rampe di lancio, anche mezzi offensivi, eccetera. Il secondo tipo di conflitto che si mescola con questo è quello della guerra indiretta, cioè è il residuo della guerra convenzionale, che viene combattuta, appunto sarà il caso della Corea, che viene combattuta indirettamente dalle grandi potenze in scacchieri limitati, controllati, con obiettivi, con scopi che vanno al di là della partita in gioco, Vietnam, la Corea, e che indicano una prospettiva anche di espansione verso paesi circonvicini o comunque dell'area. Questo è l'aspetto convenzionale che sopravvive. Attenti a una cosa, non succederà mai che tutti e due gli eserciti delle grandi potenze si affrontino direttamente. Dove sarà impegnato uno dei due eserciti, come in Corea o in Vietnam, quello americano, non sarà presente l'esercito sovietico, ma ci sarà un intervento indiretto del Nord Vietnam oppure della Nord Corea e della Cina nella guerra di Corea. Dove invece sarà presente l'esercito sovietico, come in Afghanistan, l'esercito americano non sarà direttamente presente. E questo perché? Perché c'è una terza forma di guerra che si afferma in questo periodo, che è la guerra di guerriglia, la cosiddetta guerra non convenzionale, che in qualche modo è una prosecuzione dei metodi adottati dalla guerriglia partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale contro i tedeschi in Europa, contro i giapponesi in Cina e Indonesia. Ma c'è un ulteriore livello di guerra che si intreccia con tutti questi, la guerra coperta, le cover operation, dei servizi segreti, che iniziano a lavorare attraverso strumenti nuovi, non solo campagne ideologiche o culturali per creare consenso, ma anche per esempio omicidi mirati, anche l'appoggio a determinate guerriglie, anche per esempio l'organizzazione di colpi di Stato. Il periodo della strategia della tensione, che va, come vi ho detto, dal 60 al 75, è il periodo di più intenso, di più intensa frequenza di colpi di Stato della storia. Ci sono 139 colpi di Stato riusciti, oltre che un'altra serie di colpi di Stato tentati o non riusciti, o comunque turbolenze di ordine militare. Quindi il modello di guerra che si va affermando, come vedete, apparentemente si tratta di conflitti locali o di colpo di Stato o di guerriglie. In realtà è un unico conflitto che collega questa serie di episodi e dietro il quale c'è il confronto strategico fra le due grandi potenze. In questo senso, appunto, noi possiamo parlare di una terza guerra mondiale. Certamente non ha le caratteristiche della prima e della seconda, ma non per questo può essere ritenuta solo una metafora. È l'indicazione di una realtà, di una nuova concezione teoporemologica che sfocerà in tempi più vicini nella nozione di strategia globale, ma lasciamo perdere questo dato. Perché si arriva alla strategia della tensione? Ci sono una serie di ragioni. Intanto, man mano che la prospettiva dello scontro diretto, della guerra che viene, si allontana nel tempo e matura la convinzione che la convivenza fra i due imperi non è questione di breve periodo, ma è destinata a durare un periodo abbastanza prolungato, nel quale bisogna poi trovare un modus vivendi. Man mano che questa convinzione matura, l'ordine bipolare diventa un bipolarismo imperfetto. Iniziano a emergere nuovi soggetti, iniziano a manifestarsi tendenze centrifughe all'interno di due schieramenti. In primo luogo, la rivoluzione cinese, dopo un iniziale momento di pieno affiancamento della Cina all'Unione Sovietica, più apparente che reale. Tenete conto di una cosa: la Cina non aderirà mai al patto di Varsavia, che è l'equivalente della NATO nel blocco orientale. E tuttavia c'era stato un allineamento abbastanza dichiarato e preciso fino a una certa epoca. Dal 1960 inizia a profilarsi il conflitto russo-cinese e quindi un terzo elemento compare sulla scena internazionale, non ancora una grande potenza in grado di confliggere con le altre due. La Cina diventerà una potenza nucleare solo nel 70 e peraltro nucleare nel senso del possesso della bomba atomica, ma non del vettore per poterla utilizzare. Per sviluppare questa capacità bisognerà attendere ancora qualche lustro. Nello stesso tempo molti paesi del terzo mondo raggiungono l'indipendenza e però scelgono di non schierarsi definitivamente e stabilmente con uno dei due contendenti, dando vita al movimento dei non allineati nato nella conferenza di Bandung del 1955. Quindi anche in sede ONU, per esempio, quindi in una sede per la mediazione internazionale, gli schieramenti non sono più riducibili solo. E questo anche grazie alle tendenze centrifughe di cui vi parlavo prima, per cui già dal 48 si distacca dal blocco sovietico la Jugoslavia, che sarà uno dei paesi protagonisti del movimento dei non allineati. In un primo momento ci sarà anche la Cina, che successivamente farà parte per sé, ma insieme alla Jugoslavia ci saranno l'India, il Senegal, l'Indonesia e altri paesi del terzo mondo di recente indipendenza. Quindi già questo inizia a configurare un bipolarismo imperfetto, ma a questo si aggiungeranno ancora ulteriori spinte. Ad esempio, le spinte centrifughe di cui vi parlavo andranno avanti nel blocco occidentale attraverso l'allontanamento della Francia dalla NATO. La Francia gollista resterà all'interno dell'Alleanza Atlantica, ma uscirà dalla sua organizzazione militare, la NATO. Nel blocco orientale un atteggiamento simile sarà assunto dalla Romania, mentre altri paesi tenderanno a uscire da questo quadro e non vi usciranno solo perché l'Unione Sovietica opporrà la logica brutale delle invasioni militari. Succederà all'Ungheria nel 1956, alla Cecoslovacchia nel 1968, non ci sarà un'invasione, ma ci sarà una repressione interna nella Polonia del 1971 e poi nella Polonia del 1981, quando ci sarà l'esperimento di Solidarno. Quindi l'ordine bipolare tende rapidamente a disgregarsi e impone alle due grandi potenze l'esigenza di un intervento per riallineare i propri partner nelle rispettive alleanze politico-militari. Nel blocco orientale questo ha assunto la forma, dicevo, di brutali invasioni militari. Nel blocco occidentale assume invece una forma più sottile, più indiretta. In particolare nei confronti della Francia si porrà il problema, perché la Francia, oltre che uscire dalla NATO, toccherà un punto particolarmente delicato, e cioè metterà in discussione la funzione del dollaro come moneta unica per gli scambi internazionali, chiedendo il ritorno al golden standard, cioè alla fissazione delle parità monetarie rispetto all'oro, nel 1965. Tutto questo rappresenta per gli Stati Uniti una sfida insopportabile ed è in questo contesto che nasce il cosiddetto piano caos. Il piano caos varato dalla CIA, di cui esistono una serie di stralci, si conoscono una serie di stralci anche a causa delle ammissioni fatte da uno dei suoi direttori, William Colby, che nelle sue memorie ricorda quando arriva la CIA e smantella il piano caos che era stato preparato dal suo predecessore. Il piano caos sostanzialmente si basa su un'idea: destabilizzare per stabilizzare, può promuovere la destabilizzazione interna dei paesi che si immagina possano esprimere tendenze centrifughe, quindi la Francia prima di tutte, per stabilizzare l'alleanza, per accentuare il livello di dipendenza di quel paese dall'alleanza politico-militare, in questo caso della NATO. Ed è all'interno di questa strategia del destabilizzare per stabilizzare che va inserito il caso italiano. Prima di passare alla discussione, vorrei precisare ancora due idee che sono importanti per capire. La diffusione delle teorie sulla guerra rivoluzionaria, che io accenno soltanto perché ne parlerete probabilmente molto meglio con Giorgio Galli nel prossimo incontro, e il perché si determina questa situazione di tensione. La guerra rivoluzionaria è questa, è la teoria degli stati maggiori militari del blocco occidentale. Tutto è molto semplice. Sino alla seconda guerra mondiale la presenza della guerriglia c'era, ma aveva una funzione essenzialmente tattica e di supporto alla manovra strategica che apparteneva solo agli eserciti regolari. Insomma, in altri termini, nello scontro fra un esercito regolare e una guerriglia non c'era speranza di vittoria per la guerriglia se non avesse avuto l'appoggio di un altro esercito regolare. Partigiani italiani o russi o jugoslavi non avrebbero avuto speranza di vittoria con la Wehrmacht se non avessero avuto dalla loro parte l'esercito, l'armata rossa da un lato e gli eserciti alleati anglo-americani dall'altro. E invece negli anni 50 questo non è più vero. L'esercito francese, che è uno degli eserciti più forti del mondo, non certo a livello di quello americano e quello russo, ma comunque tra i primissimi del mondo, viene ripetutamente battuto dalle guerriglie, prima a Dien Bien Phu, in Vietnam, e dopo in Algeria. In Vietnam, per di più, lo scacco è particolarmente cocente perché avviene in una battaglia campale come quella di Dien Bien Phu, dove i francesi sono più numerosi, più equipaggiati, più armati e più addestrati. E vengono battuti da un esercito raccogliticcio di contadini malarmati e mal equipaggiati, ma molto più determinati, molto più motivati. Inizia a sorgere il problema di quale forma di guerra sia la guerriglia e di quanto conti in questo il fattore psicologico. L'unica cosa in cui i vietnamiti erano più forti dell'avversario era sul piano della motivazione. Dunque l'aspetto psicologico diventa un aspetto prioritario della guerra. Da questa riflessione inizia a nascere la dottrina della guerra rivoluzionaria, cioè l'idea che l'Unione Sovietica, accennavo prima al fatto che il progetto imperiale dell'Unione Sovietica si basava essenzialmente sul condizionamento ideologico più che su quello economico-finanziario. Ecco, l'Unione Sovietica si riteneva stesse già operando stesse già muovendo guerra all'Occidente con una miscela di misure quali il terrorismo e le guerriglie nel Terzo Mondo, ma le agitazioni sociali, gli scioperi nei paesi industrializzati dell'Occidente, manovrati attraverso i partiti comunisti e i sindacati che venivano ritenuti senz'altro delle pedine dell'esercito sovietico totalmente integrati in esso e che erano dei veri esecutori. Ora, in tutto questo è evidente che c'erano molte forzature, però non è questo quello che ci interessa. Quello che ci interessa è capire come inizia a maturare un'idea diversa di guerra che fonde misure non militari con misure militari. Ed è una tendenza che proseguirà anche dopo la fine del bipolarismo ed è quello che domina la scena internazionale in questo momento, ma lasciamola fare. A questo bisogna aggiungere una cosa, bisogna aggiungere che l'Occidente subisce una spaccatura grave del suo gruppo dirigente intorno al 1960. Nel 1960, di fronte alla constatazione che la partita non può essere giocata e risolta in tempi brevi, ma con ogni realistica probabilità comporta un lungo periodo di convivenza fra impero americano e impero sovietico, si affacciano diverse ipotesi di conduzione dello scontro. Prevale quella rappresentata dal candidato democratico alle elezioni del 1960, John Kennedy, che è, si chiamerà progetto della coesistenza pacifica, ma sostanzialmente è un mix di due precedenti teorie di politica internazionale. Quella del cosiddetto internazionalismo di Wall Street, tendente a creare un condizionamento mondiale attraverso una rete i condizionamenti economici, finanziari, tecnologici, e quindi a ripetere in questo anche il blocco orientale, ma nello stesso tempo la politica del containment, che era stata invece caratteristica degli anni 40-50, ispirata da George Kennan, una politica per la quale si circondava sostanzialmente l'avversario attraverso un sistema di politica di alleanze. E infatti alla NATO, che iniziava in Islanda sul fronte europeo e finiva alla Turchia, opponendo una fascia di paesi che attraversava il nord, il centro e il sud Europa, succedeva poi il patto di Baghdad, successivamente chiamato Cento, che federava una serie di paesi islamici, e subito dopo si attaccava a questa alleanza il blocco della SEATO. La SEATO era la NATO del Sud Pacifico, che includeva il Pakistan, il Sud Vietnam, la Sud Corea, eccetera, eccetera, cioè paesi asiatici filo occidentali. Questa cintura sostanzialmente si risaldava in due lati agli Stati Uniti, creando una sorta di cintura di sicurezza, di cordone sanitario intorno al blocco comunista cino-sovietico. Questa era l'idea del containment. Kennedy in qualche modo mescola le due idee e da un lato mantiene la demarcazione, però dall'altra cerca la graduale erosione dell'avversario in una situazione comunque di coesistenza pacifica, cioè di politica che eviti i rischi di guerra immediati. Questo anche per poter favorire le tendenze alla dissociazione nel campo avversario. Il problema è che le tendenze alla dissociazione ci saranno anche all'interno del campo atlantico. Ora, questa politica della distensione non troverà concordia l'intero gruppo dirigente occidentale. Avrà un riflesso, per esempio, nella politica interna con la nascita dei governi di centrosinistra, cioè il recupero dei partiti socialisti socialdemocratici precedentemente all'opposizione, al governo alleati in genere i partiti liberali o cristiani più omogenei allo schieramento atlantico. Questa politica troverà forti resistenze sia negli Stati Uniti sia in settori importanti dei partiti liberali, democristiani, in parte addirittura socialdemocratici europei, che propenderanno invece per un orientamento definito quello del rollback, cioè il ributtare indietro i sovietici rispetto alla linea di confine che hanno conquistato con la Seconda Guerra Mondiale. Se ci fate caso, politica della distensione ha un suo esatto rovesciamento semantico nell'espressione strategia della tensione. Vorrei far riflettere su una cosa. Strategia è il fine. Il mezzo di solito è la tattica, per semplificare estremamente il discorso. Allora, voi per strategia della tensione cosa intendete? Normalmente si intende una serie di attentati, di episodi criminosi la cui responsabilità deve essere attribuita all'avversario per favorire una svolta autoritaria. Grosso modo è questo l'idea. Ma in questo caso dovremmo parlare di tattica della tensione, perché la strategia, l'obiettivo strategico è la trasformazione istituzionale in un regime di democrazia protetta dai militari di un determinato paese. Gli attentati sono il mezzo, sono lo strumento tattico attraverso cui si opera. Perché parliamo di strategia di attenzione? Perché in realtà il concetto nasce al di fuori da questo contesto, nasce a un livello più alto. La tensione è obiettivo strategico in sé. Il rifiuto della distensione, appunto, è la premessa della politica del rollback. Quindi l'obiettivo strategico è proprio quello di mantenere la tensione. In questo senso, voi dovete capire che la strategia della tensione, intesa non come progetto, ma come periodo storico, ecco, vedete come poi le espressioni talvolta hanno una loro ambiguità, una loro polisemicità. La strategia dell'attenzione periodo, epoca, è il prodotto di queste tensioni che non riescono a trovare sbocco. C'è una tensione fra blocco orientale e blocco occidentale che però non può arrivare a livello di una guerra aperta e dichiarata. E tuttavia i motivi di urto, di scollato, rito, c'è, non è eliminato. C'è una tensione all'interno del blocco occidentale fra chi punta sui tempi lunghi della coesistenza pacifica e chi vorrebbe invece una politica decisa, immediata di rollback. E anche questa però ha una dimensione, ha un limite, e il limite è quello di impedire che questo sfoci in una guerra fredda, in una guerra civile interna. In alcuni paesi questa è una contraddizione assolutamente drammatica, in Grecia per esempio. Bisogna evitare la dimensione della guerra civile. E quindi, come vedete, se c'è una guerra fredda a livello internazionale, c'è anche una guerra civile fredda all'interno dei singoli paesi. La strategia dell'attenzione, intesa come periodo storico, come concreta pratica politica del periodo storico, nasce all'incrocio di questi due ordini di tensione e dei limiti entro cui esse sono costruite. E a partire da questo, che voi capite come una serie di episodi, stragi, tentativi di colpo di Stato, attentati singoli, eccetera, non possono essere letti come singoli episodi, magari di natura criminale, ma sganciati da un contesto politico generale che li spieghi. Spesso accade di vedere delle trasmissioni televisive che, parlando di anni di piombo, eccetera, li illustrano come un periodo di fanatismo ideologico, di irrazionalità collettiva, un momento di pazzia. È un po' l'equivalente della famosa definizione crociana del fascismo come parentesi, è una riproposizione della parentesi crociana. In realtà non si tratta neanche in questo caso di una parentesi di razionalità e di follia, ma di qualcosa che ha profonde spiegazioni razionali che affondano nella politica internazionale interna di ciascun paese. Dunque, non è il discorso, in questo senso io sono stato un critico, ad esempio, della decisione di istituire un giorno della memoria delle vittime del terrorismo, che come voi sapete cade il 9 maggio, e che secondo me è una solenne sciocchezza, perché mescola episodi e logiche politiche completamente diverse, esecrabili entrambe, sia chiaro. Il terrorismo di sinistra e quello di destra non c'è motivo di ritenere uno migliore dell'altro. Ma attenzione, mossi da logiche politiche e da dinamiche completamente diverse. Se voi mettete insieme cose completamente diverse, quello che viene fuori è un generico, una generica condanna morale della violenza, sulla quale saremo sempre d'accordo, per carità, ma non aiuta a capire quello che è accaduto. Se il problema è capire quello che è accaduto, occorre decifrare le motivazioni politiche, le dinamiche politiche che hanno prodotto quegli avvenimenti. E nel nostro caso la strategia dell'attenzione è stata prodotta da queste dinamiche politiche, dinamiche che sviluppavano degli attriti frontali fra blocchi politico-militari all'interno dei singoli blocchi e all'interno dei singoli paesi, questi tre livelli di conflittualità che però non potevano giungere alle estreme conseguenze e scaricavano la loro tensione, esattamente come l'attrito delle zone terrestri si scatena poi in un terremoto che si manifesta magari in un posto estremamente distante, scaricavano questa energia prodotta dall'attrito nelle forme della guerra coperta, del terrorismo di guerriglia o del terrorismo di Stato, che è stato uno degli aspetti caratterizzanti di questa epoca. Grazie. Grazie. E adesso sta a voi. Eccolo lì. Mangiannulli. Ho letto poco tempo fa Il mito della guerra buona di un ricercatore canadese che sostanzialmente prospettava il fatto che gli americani uscirono dal New Deal, dalla grande crisi, non con il New Deal, ma con la produzione bellica della seconda guerra mondiale, ci fecero il callo e lo portarono avanti ad libitum durante tutta quanta la guerra fredda, fedele al metodo di industria delle armi, vuol dire produrre costosissime cose all'interno dell'America per l'unico uso di distruggerle, e creando così non una specie di socialismo reale, ma un enorme indotto che ha prodotto probabilmente l'eventuale benessere e lo ha perdurato fino a che non è scricchiolata l'Unione Sovietica, che non poteva fare molto. Questo ha spiegato tantissime cose, non ultime il fatto di tirarla in lungo il più possibile, anche per necessità interna propria. Lei come pensa? Parliamo un po' di cosa insieme prima per evitare il botta e risposta. Ma allora, quanto faccio io, sembra che la guerra bella non sia ancora finita, nel senso che l'epicentro nel sud Europa, l'Italia, è diventato un mese di Oriente. Ma il progetto di libro è sempre quello. Grazie. Sì, volevo un chiarimento sul limite cronologico 1974, cioè perché quella data è, come dire, quello che poi è successo in Italia negli anni successivi, penso a Aldo Moro, Bologna, sono al di fuori di questo contesto con una Costituzione. Ho visto un canale che si agitava. Scusi, Sofia, volevo sapere, qui si parla di un'esperienza che la guerra fredda in realtà è iniziata già nel 1917, si parla di alcuni accenni con la produzione del 1917, poi si vuole qualcosa in più, e poi per quanto riguarda un libro che ho letto di Chomsky, Capire il potere, su alcuni chiarimenti della guerra del Vietnam. Lui sosteneva che anche gli americani non sanno bene perché effettivamente c'è stata questa guerra, ancora adesso. Quindi, facciamo questo primo blocco? Allora, rispondo insieme al problema della guerra fredda del 17 o alla guerra fredda che dura tuttora. Alexander Ware è quello che sostiene che la guerra fredda è iniziata nel 1917 con la rivoluzione russa e con la politica di accerchiamento della Russia rivoluzionaria, soprattutto da parte dell'Inghilterra. In realtà però sarebbe corretto parlare di una prima guerra fredda, che è quella che appunto inizia nel 17 e che intanto termina nel 39 perché c'è la guerra calda, ma soprattutto nel 1941, quando per effetto dell'aggressione hitleriana alla Russia si determina l'alleanza anglo-russa contro i tedeschi. Quindi, cioè, obiettivamente finisce quella prima guerra fredda con questo doppio effetto della guerra mondiale, della seconda guerra mondiale. C'è poi una seconda guerra fredda, che è quella che normalmente viene definita la guerra fredda, che è quella che inizia nel 1946, sostanzialmente col discorso di Fulton di Churchill il 5 marzo del 1946, il famoso discorso sulla cortina di ferro, e che possiamo ritenere conclusa con il crollo dell'Unione Sovietica e la disgregazione del blocco orientale fra il novembre dell'89 e l'estate del 91, quando si scioglie l'Unione Sovietica. Io direi che adesso è in atto un'altra cosa che non so nemmeno se chiamare guerra fredda. Io credo che noi siamo in presenza di una guerra asimmetrica, coperta e globale, che ha caratteristiche diverse dalle precedenti. Alcune cose le richiamano, per cui ecco la sensazione che ci sia una guerra fredda che continua. In realtà non è la stessa guerra fredda, tanto per cominciare, qui non abbiamo due schieramenti, anzi abbiamo un equilibrio mondiale sostanzialmente retto intorno a 7 grandi potenze e a geometrie variabili di alleanza, quindi una situazione, se volete, più simile a quella precedente alla prima guerra mondiale che non a quella successiva alla seconda. Quindi in questo senso, pur essendoci, certamente sono d'accordo, modalità simili che proseguono, però c'è un contesto che ci fa parlare, se volete, di una terza guerra fredda, ma io preferirei parlare di una guerra globale, asimmetrica e coperta. La produzione di armi, sì, in effetti è una vecchia teoria, peraltro abbastanza confermata, quella per la quale la produzione di armi eccetera è stata determinante per gli Stati Uniti per uscire definitivamente dalla depressione. Per la verità, la tendenza alla depressione si era già invertita verso il 35-36 con gli inizi del New Deal, poi nel 39 già gli Stati Uniti hanno raggiunto un livello di produzione quasi a livello del periodo pre-crisi. Però certamente, tant'è vero che si parlò di un warfare state, che era il parallelo del welfare state, cioè uno stato del benessere che però in qualche modo era l'altra faccia della medaglia dello stato della guerra, cioè lo stato che attraverso la produzione bellica stimola il ciclo economico, scaricando peraltro tutto questo su partner stranieri attraverso il meccanismo del dollaro. E però attenzione, perché questo non è affatto finito con la fine dell'URSS, anzi si è moltiplicato negli anni successivi. Se voi pensate a una cosa, la guerra dell'Iraq è costata qualcosa come 8 volte l'intera seconda guerra mondiale a tutti i singoli contendenti, 3.000 miliardi di dollari, che è una cifra che fa impressione per una serie di ragioni. Se leggete il libro di Stiglitz capirete il perché. La guerra di 3.000 miliardi, appunto, si chiama. Ecco, solo che tutto questo funziona se nel presupposto che ci sia il meccanismo del dollaro che consente di scaricare i costi di questo meccanismo sugli altri, sul mercato mondiale. E non è un caso che la Cina oggi stia proponendo di adottare un paniere di monete proprio per evitare questo tipo di dinamiche. Ed è uno dei motivi di maggiore attrito, anzi forse il motivo di maggiore attrito nella politica internazionale. La delimitazione delle date 74-75. Allora, perché scelgo 75? 75 a livello internazionale significa delle cose. Prima di tutto c'è la conferenza di Helsinki con la costituzione della CSCE, la Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, il definitivo riconoscimento dei confini stabiliti nella Seconda Guerra Mondiale, che elimina alcuni dei motivi di contenzioso, ad esempio il confine orientale dell'Italia, e in qualche modo pone fine. Si disse che era la fine della Guerra Fredda e ci sarebbe stata poi una Seconda Guerra Fredda con l'inizio della polemica sui missili Cruise e Pershing. Adesso non andiamo a sottospecificare troppo. In ogni caso, certamente 74-75, con la conferenza di Helsinki, con la sconfitta americana in Vietnam, con il ripiegamento americano per alcuni anni, gli Stati Uniti non interverranno all'estero in nessuna occasione, anche questo ha la sua importanza. Soprattutto spariranno in ambito NATO le dottrine ispirate alla guerra rivoluzionaria. Quindi è un contesto internazionale. Per quanto riguarda l'Italia, il 74-75 è il momento in cui si completa e si consuma l'esperienza del centrosinistra, c'è la vittoria dei laici nel referendum del 74 sul divorzio, la grande avanzata comunista nelle regionali del 75 e poi nelle politiche del 76, l'avviamento della politica della solidarietà nazionale. In questo contesto si assiste alla smobilitazione di quegli apparati che avevano consentito lo stragismo. C'è da un lato la messa fuori legge di Ordine Nuovo, poi la Guardia Nazionale, c'è un'ondata repressiva molto dura nei confronti dell'estrema destra. Nello stesso tempo c'è una relativa purga interna ai servizi segreti che ripulisce un po' l'ambiente. C'è una tornata di nuove nomine ai vertici militari, per cui pur essendoci nella parte esponenti della P2, però spesso ci sono personaggi direttamente agli episodi precedenti della strategia. Quindi c'è un contesto che liquida quella opzione politica e una fase nuova che li apre, all'interno della quale, ecco, ci sarà il fenomeno del terrorismo di sinistra o lo spontaneismo armato di destra di NAR, per esempio. Ma è cosa diversa. Per cui Moro è una cosa di un episodio diverso, è opera delle Brigate Rosse, quindi in questo senso non si può ricondurre alla logica della strategia della tensione. Bologna, anche quello è un episodio completamente diverso, perché è un episodio che in qualche modo si collega più a dinamiche internazionali che a dinamiche interne. Attenzione, Bologna non... La strategia della tensione ha avuto un classico in Piazza Fontana, la strage per accusare gli anarchici e chiedere una svolta a destra del paese. Bologna non è tutto questo. Bologna immediatamente, perfino il PSD, ricordo la mia città, fece un manifesto per dire sono stati fascisti, strage fascista. Quindi non ha più quel tipo di logica. Bologna è una cosa diversa, secondo me, molto più legata all'episodio di Ustica. Tra l'altro non aveva ragione di esserci in Bologna in quel momento, perché Piazza Fontana, Piazza della Loggia, si scrive in un momento di ascesa delle sinistre, di resistenza a tutto questo, di ipotesi di governi svolta autoritaria per normalizzare il conflitto sociale. Bologna avviene quando il conflitto sociale è stato normalizzato, il PC è stato sbattuto fuori dalla maggioranza, si è costituito un governo di pianta partito, si è avviata la stabilizzazione moderata. Una strage di quel tipo non solo non è funzionale, ma mette in pericolo una svolta moderata di quel genere. Quindi io escluderei Bologna da questo contesto. Ultima cosa, il Vietnam. Sì, conosco quello scritto di Chomsky. Beh, ovviamente agli americani la guerra è stata presentata come sacrificio dell'America in difesa della libertà. Questo è uno dei temi classici. C'è un libro di Del Pero, che io non condivido del tutto, sull'impero americano, che però coglie una cosa nella dimensione neoimperiale degli americani. Perché attenzione, gli Stati Uniti nascono da una rivolta antiimperiale, quindi fanno molta fatica ad accettare l'idea di impero. Impero è una parola connotata negativamente nel linguaggio politico americano, almeno fino alla metà degli anni 70, per due secoli. Dopo le cose cambiano, in particolare con l'avvento dei neocon, e un libro in particolare segna questo discorso, è il libro di Eduard Luttwak, La grande strategia dell'impero romano, dove si scrive romano ma si legge americano. Quindi ecco, lì nasce, viene conclamato il progetto, che però c'era già da prima. Progetto che è sempre stato giustificato da che cosa? Dalla missione mondiale che hanno gli Stati Uniti come paese garante della libertà. Sempre stata questa la proiezione ideologica. Quindi gli Stati Uniti realizzano una serie di interventi, non la vera differenza tra gli Stati, l'imperialismo classico e l'imperialismo americano, qual è? Non è come dice Negri che l'imperialismo americano non esiste perché l'impero è una cosa sovranazionale, questa è una sciocchezza, semplicemente è questo. L'imperialismo classico presuppone l'occupazione stabile, militare stabile di un territorio, la cui soggettività politica viene azzerata. Non ha espressione statuale propria, gli abitanti non hanno diritti politici, c'è semplicemente un'occupazione militare in nome della civilizzazione per la quale quella realtà territoriale viene ritenuta soltanto un possedimento della metropoli. Nel caso americano questo non si dà, gli americani tendenzialmente evitano di occupare militarmente il paese in modo stabile e definitivo, lo fanno di solito quando c'è un'operazione militare in corso. Sono sempre attenti a fare in modo che ci sia almeno la parvenza di un governo sovrano locale, anche se si tratta del sindaco di Kabul, per intenderci, però deve esserci almeno questa cosa. Ma la tecnica, la modalità specifica attraverso cui gli Stati Uniti realizzano il rapporto di dipendenza di un determinato paese da se stessi è piuttosto di tipo economico, attraverso la dimensione finanziaria, gli aiuti tecnologici che però rendono dipendenti dalle proprie imprese e così via. Tutto questo non è stato chiamato impero per molto tempo, è stato chiamato con altri nomi, difesa della libertà, del libero mercato, eccetera, ma in epoca più recente, con la comparsa dei neocon, ha cominciato ad essere chiamato con il nome proprio. Ovviamente un nuovo tipo di impero, sarebbe una sciocchezza pensare che sia una pura prosecuzione del passato, è un nuovo tipo di impero, ma è pur sempre una ipotesi di dominio imperiale. Ecco, questo non viene spiegato esattamente in questi termini agli americani per quanto riguarda la guerra del Vietnam. La presentazione è stata proprio rilevanza al discorso della liberazione dell'Europa anticoloniale, che è un po' diverso dallo scontro per interposta persona tra Russia e Stati Uniti. Il rischio può arrivare all'Africa, per esempio, quindi le relazioni che hanno preparato anche le classi di genere, al di là di quello come è finito. No? E in questo aspetto anche il ruolo di Cuba, che ha avuto, presentato praticamente all'interno del cortile di casa, sostanzialmente, vorrei capire se c'è questa rilevanza o meno. Poi? Per quanto riguarda la rilevanza dell'impero americano in quanto impero economico, viene da mono e da Beverly, no? Come ideologia. E poi invece mi chiedevo se sbaglio. E la seconda cosa che mi chiedevo è nel 73 c'è stata la prima grande crisi petrolifera. Mi chiedevo quali, se eventuali. Se e quando la crisi petrolifera e quindi gli effetti poi che da essa conseguono hanno influito nelle svolte che vanno appunto nel trasporto. Due domande le faccio anch'io. Sì, no, anche perché sta diventando, con la sua eccezione, un dialogo fra noi diversamente giovani, ma anche direi che no, ci infatti, fossero quelli più... Le mie domande vanno insieme, nel senso, se puoi dedicare un piccolo approfondimento al ruolo, alla posizione, al ruolo dell'Italia nel contesto internazionale in quegli anni, senza entrare nel merito, perché poi avremo la lezione dedicata solo al contesto nazionale, però come si muove l'Italia come snodo appunto nello scenario internazionale, e la specificità invece del caso della Grecia, che nello studio della strategia della tensione è un caso, abbiamo letto anche dalla dispensa, molto particolare, dalla quale si possono evincere molti particolari, molte notizie interessanti, e quindi se potevi dedicare due parole anche su questo. Una domanda che più che altro una curiosità, cioè all'interno del piano caos, quindi la destabilizzazione dei paesi per la stabilizzazione internazionale, la destabilizzazione interna. In Italia, visto che è uno dei tasselli del piano caos, come hanno fatto le forze istituzionali della sinistra italiana, penso ai sindacati o al Partito Comunista Italiano, a non rendersi conto o a non saper reagire a questo tipo di piano che gli veniva contrapposta e che è un tappo per le comunicazioni sociali? Volevo sapere se la tanto famosa e però poco citata Operazione Gladio era servibile a questo contesto di appunto, Operazione Caos, queste strategie della tensione. Vorrei sapere per cortesia quanto effettivamente, realmente c'è con i servizi segreti comunque in questo periodo, con tutto quello che è successo in questi... Servizi segreti quali? Italiani, americani, russi, belgi, quali? Servizi italiani. Vabbè. Liquido questo... Questo da Gladio, vabbè. Piano solo. Gladio e solo grosso. E piano solo, sì. Vabbè. Allora... Posso fare una parentesi piccolissima? Prima... lui accennava al fatto che rischiava di diventare un dialogo tra diversamente giovani. Io davvero ci tengo a sottolinearlo perché per noi è molto importante questo fatto. Mi rendo conto che magari spesso è difficile rompere il ghiaccio, dialogare con il relatore, lo sappiamo. Però davvero noi ci terremmo moltissimo che il più possibile gli studenti uscissero da questo laboratorio con... le idee un po' più chiare, un po' più insomma definite, che possono orientarsi in maniera migliore in questi argomenti. Quindi non abbiate timore anche di magari di pensare, magari faccio una domanda stupida. Nessuna domanda è stupida. Insistete se qualcosa non è chiaro e soprattutto se finché non avete un'idea chiara, completa, definita di quello che stiamo studiando, perché altrimenti il senso del nostro laboratorio viene meno e invece noi davvero ci teniamo che voi insomma abbiate un bagaglio alla fine, per cui davvero è un invito a cuore aperto. Esatto, soprattutto gli iscritti al laboratorio, quindi per carità le domande sono aperte a tutti, non ci mancherebbe, però davvero noi che siamo studenti, e adesso non me ne vogliano gli spettatori, come dice Aldo, diversamente giovani, però quello che a noi interessa nel laboratorio è far sì che i giovani studiosi di storia che magari andranno a insegnare storia nelle scuole nei prossimi anni, andranno a fare i giornalisti, magari, possibilmente, piacerebbe a tutti, faranno gli storici, acquisiscano gli strumenti per orientarsi in questa materia che è tanto aggrovigliata e tanto complessa. Quindi davvero non fermatevi davanti agli ostacoli. Noi cercheremo di essere più disponibili possibili, però ci vuole una grande disponibilità da parte nostra. Io forse la domanda stupida, fuori dal periodo che lei ha detto, appunto, è 69-75, volevo chiedere di due eventi singoli, Ustica, che lei ha citato, come può o no, non può essere ricollegata, e invece prima Portella delle Ginestre, come si inserisce nel discorso di servizi segreti e reclutamento di... Sì, anche una domanda banale. Lei ha detto che dopo la guerra di Corea e l'invasione dell'Ungheria si realizza che le guerre nucleari sono praticamente infattibili. Volevo sapere, questo atteggiamento permane e se sì, come mai c'è questa corsa comunque agli armamenti, con anche questa voglio dire, discussione continua su questi paesi che comunque si vogliono munire di armi nucleari? Vabbè, direi che come stock è sufficiente. No, intanto io apprezzo molto l'ottimismo di Martino che parla di futuri docenti di storia nella scuola, quindi dando per scontato che in questo paese ci sarà una scuola. Vabbè, speriamo. ha detto anche il giornalismo, ci sono problemi che scompaiono. Sì, no, il giornalismo, aspetta. Allora, la questione delle lotte coloniali, sì, certo che le lotte coloniali e contro il colonialismo, cioè le rivoluzioni anticoloniali, sono state importanti, non sono riducibili soltanto a una logica di intervento dell'Unione Sovietica, ma di una loro autonomia. D'altronde il movimento dei non allineati non avrebbe avuto senso, non avrebbe avuto modo di esistere, non ci fosse stata, per esempio, la rivoluzione indonesiana. L'Indonesia è uno dei paesi dei non allineati che promuove il blocco dei non allineati. Quindi sì, certamente questo, dovendo fare delle scelte, perché ho preferito tenermi sotto l'ora di relazione, anche perché appunto noi diversamente giovani siamo più abituati a cose più lunghe. Le generazioni allevate a pane e televisione, dopo un po' di tempo fanno zapping, certo, si muovono. Non, sì, certamente è vero, e sono state una cosa molto rilevante, meriterebbero ben altra discussione. Io qui non entro nemmeno, perché per esempio c'è tutto il discorso appunto dell'Algeria, del Vietnam, delle colonie portoghesi, una materia complessissima. Sì, il progetto imperiale americano prende le mosse dalla dottrina Monroe, che giustamente Carl Smith, quindi siamo nel 1823, che giustamente Carl Smith definì come la teoria dei grandi spazi e la nascita di una geopolitica americana, non c'è dubbio. Solo che allora, ecco, non usava il termine imperiale. Peraltro era un periodo in cui ancora questo si saldava all'appoggio dato dagli Stati Uniti appunto alle rivoluzioni anticoloniali, in questo caso contro il colonialismo portoghese e spagnolo nel Sud America, nel momento in cui ad esempio gli Stati Uniti si schierano a favore di Simón Bolívar. Quindi in qualche modo c'è questa doppia dimensione di ordine imperiale, però anche rivoluzionaria. Cioè gli Stati Uniti sono un paese che è venuto fuori da una rivoluzione solo di qualche decennio prima, insomma, quindi, e ancora nel 1812 devono fronteggiare un tentativo di riconquista da parte degli inglesi. Quindi sì, questo c'è. La crisi petrolifera del 73, la crisi petrolifera del 73 incide relativamente nella liquidazione delle teorie della guerra rivoluzionaria, ha invece conseguenze molto importanti su un altro piano. La nascita dell'ipercapitalismo finanziario, che alimenterà essenzialmente la svolta neoliberista degli anni 80, prende le mosse proprio dal 73, dal forte rincaro del prezzo del petrolio nel 73 e poi la seconda ondata del 79, che creerà opportunità di investimento finanziario assolutamente senza precedenti e inizierà a far sviluppare grandi concentrazioni, che sono quelle che poi saranno alla base dello sviluppo appunto dell'ipercapitalismo finanziario degli anni 80, il progetto neoliberista partito dal 1993 dall'Uruguay. L'Italia, collocazione internazionale d'Italia, ma su questo ci sono atteggiamenti diversi sia degli storici che della polemica politica, per cui di volta in volta si tende a presentare l'Italia o come un partner pienamente paritario con gli Stati Uniti, che insomma è un po' ottimistico, oppure a presentare l'Italia come la Bulgaria della NATO, la marionetta. Entrambi gli scenari sono assolutamente stabilizzati e concludibili. Questo paese ha sempre avuto una sua relativa autonomia, che però va ricompresa in cosa? In una dimensione di intervento di media potenza di area regionale. E infatti l'Italia è stata normalmente molto allineata con la NATO, con una sola eccezione: lo scenario mediorientale e la politica petrolifera. Ci sarà chi dirà che l'Italia è sempre l'ultima moglie americana e un amante araba. Ed è un'espressione che io trovo abbastanza felice, perché tendenzialmente con i paesi arabi il rapporto ha la dimensione clandestina che è proprio del rapporto extraconiugale. Io credo che l'Italia vada collocata, vada capita in questo senso, la posizione dell'Italia, da un lato come potenza di interesse, media potenza di interesse regionale, dall'altro per la particolarissima caratteristica di paese di confine ad incrocio fra est ed ovest, ma anche fra nord e sud del mondo. L'Italia si trova in una posizione di bilico fra non solo est e ovest, ma anche nord e sud, e la politica estera è appunto una proiezione di questa particolarissima posizione dell'Italia. La Grecia rappresenta in effetti un caso a sé stante, particolare, perché è l'unico caso di regime fascista o di tipo fascista in Europa che nasce dopo il 1945. Gli altri regimi fascisti che c'erano, Spagna e Portogallo, erano precedenti, sono rimasti e poi sono venuti anche loro nel 74, ma in nessun altro paese europeo si è affermato un regime di paesi dell'est, sono un'altra cosa, un regime non parlamentare, non liberale, dove non ci fossero le libertà democratiche e le elezioni del Parlamento, eccetera, eccetera. Questo però è dovuto anche alla particolarissima posizione della Grecia, che veniva da una guerra civile estremamente sanguinosa, a sua volta proiezione di conflitti precedenti su cui si era innestato il ruolo in parte dell'Inghilterra, in parte anche della Jugoslavia, ancora legata all'Unione Sovietica. Ora, tutto questo ha creato una storia nazionale assolutamente particolare, assolutamente unica, che ha avuto anche questo tipo di proiezione. Il piano caos, il PC e i sindacati. Ma certo che se secondo voi un partito come il Partito Comunista Italiano non era al corrente, forse non sapeva che si chiamava piano caos, non gliel'avranno detto, ma tutto il resto credo che lo sapesse e lo percepisse molto bene. Il Partito Comunista Italiano non era un ectoplasma di partito come quelli attuali, era un partito con una struttura estremamente organizzata, era un partito che aveva oltre 1,5 milioni di iscritti, fra cui non pochi nell'esercito, nella polizia, negli apparati ministeriali, anche se magari non sempre manifesti, non sempre evidenti. Era un partito che attraverso il sindacato riceveva flussi di notizie e informazioni estremamente importanti, era un partito che aveva un proprio, vero e proprio servizio segreto di partito, proprio il lavoro, il cosiddetto lavoro riservato. Era un partito che aveva normalmente scambio di informazioni con i paesi dell'est, quindi è ovvio che un partito del genere, con una ramificazione organizzativa così importante, fosse al centro di flussi informativi tali per cui una cosa del genere non può essere sfuggita. Guardate, quando il PC è stato una sorta di stato non sovrano, quando Berlinguer andava in visita in un paese come la Cina, per esempio a Pechino, veniva accolto come un capo di Stato e veniva ricevuto dal capo di Stato, non solo dal segretario del partito, veniva ricevuto dal capo di Stato e dal capo del governo. Ora, è ovvio che un partito che ha questa dimensione, questo peso internazionale, ovviamente un partito così si è anche difeso a modo suo, non utilizzando tutte le notizie che aveva, anzi utilizzandone una parte estremamente limitata, ma sviluppando una diplomazia coperta verso i partiti di centro, ma anche verso la NATO. O voi credete che la famosa intervista di Berlinguer sul "mi sento più sicuro sotto l'ombrello della NATO" sia stata una cosa che è venuta in testa a Berlinguer in quel momento? Non c'è stata prima tutta una politica? Io ricordo di aver notato all'epoca il primo segnale di disponibilità, perché guarda, il PC fino a un certo momento, fino al 69, io ricordo le manifestazioni del Partito Comunista Italiano che chiedevano l'uscita dell'Italia dall'Unione. Poi a un certo punto, verso il 71-72, mi ricordo che nei cortei erano proibiti gli slogan che chiedevano l'uscita dell'Italia dall'Unione. Sapete perché? Arrivava il servizio e diceva no, meglio un'altra cosa. Quel giorno mi ricordo di aver letto una cosa sul giornale della Metclan, non so se qualcuno se ne sia mai accorto. C'era un bollettino della comunità europea, si chiama Comunità Europee, era distribuito gratuitamente, credo che non lo leggesse assolutamente nessuno. L'ultima pagina, di solito, era sempre qualche intervista, qualcosa. Io ricordo un articoletto dell'ottobre 72 di Giorgio Amendola, dove Amendola lascia cadere così il discorso che va bene, noi non chiediamo l'uscita dell'Italia dalla NATO unilaterale, questo avverrà quando si scioglieranno contestualmente i blocchi, patto di Vassalli, no, cioè l'anno di poi, il mese di mai, quindi tolto in mezzo questo discorso. Quindi ci sono stati una serie di segnali mandati a, cioè voi pensate, una posizione come quella sulla NATO, che è una posizione importantissima linea politica del PC, viene ufficializzata solo verso il 74-75, ma voi pensate, una cosa del genere viene modificata da un articoletto su un bollettino totalmente sconosciuto come Comunità Europea, stampa clandestina insomma, obiettivamente, viene lanciato in questa maniera. Questo è tipico di un'operazione di diplomazia coperta in cui tu stai lanciando un segnale ad altri per far capire che stai aprendo il discorso. Quindi ci sapeva e anche, si è anche comportato di conseguenza. L'operazione Gladio non c'entra molto. Gladio nasce nel contesto del problema del confine orientale e delle dottrine militari per le quali si dava per scontato che l'offensiva sovietica sarebbe partita dall'Ungheria e sarebbe passata attraverso il corridoio di Gorizia. Gorizia è a 80 km dall'Ungheria, cioè è un pezzettino di Jugoslavia che separa, di Slovenia che separa Gorizia dal confine ungherese. Quindi si dà per scontato che ci sarebbe stato questo attacco e che sarebbe stato impossibile difendersi, perché si dava per scontato che i comunisti sarebbero passati alla guerriglia in appoggio all'attacco sovietico, occupando la dorsale appenninica dalla Spezia alle Marche, sostanzialmente al mare Adriatico, quindi spezzando in due il paese. Questo presupponeva un arretramento della difesa sull'asse Pisa-Napoli. E successivamente, se non si fosse riusciti, e probabilmente si teneva, non si sarebbe riusciti a tenere il concentramento in Sardegna, da tenere come unica regione per insediare il governo italiano. In questo contesto, l'unica iniziativa che era possibile era quella della guerriglia, sostanzialmente lo strumento della guerriglia partigiana, e Gladio è pensata in questo senso. Tant'è vero che Gladio nasce essenzialmente intorno a che cosa? Ai militanti della vecchia brigata partigiana Osoppo, che era una brigata partigiana bianca che operava nel Friuli. Dopo Gladio diventerà molte cose, si accatasteranno molte cose anche di natura clientelare. Io ricordo quando ho sfogliato in commissione stragi le schede dei gladiatori, ho cominciato ad avere una serie di perplessità. Quando comincia a vedere la scheda di uno, condizioni fisiche ottime, due punti, manca del rene sinistro e così via. Ricordo che il top era rappresentata dalla scheda un medico, credo, della Valtellina, del quale si diceva: soffre di turbe alla memoria, di incontinenza urinaria e dell'oquace. Cioè si fa sotto, non ricorda niente, quello che ricorda lo dice. Esattamente. Quindi in realtà Gladio era un'altra cosa, è tornato utile a un certo punto come depistaggio. è tornato utile tirar fuori Gladio, e ancora oggi, perché chi è che mi ha fatto la domanda su Gladio? Tuzzi, che c'è 20 anni. Quando è scoppiata la polemica su Gladio, tu credo che stessi nascendo. Allora, guardate come i meccanismi dell'immaginario, cioè si è consolidato questo ricordo di Gladio come la struttura che ha fatto la strategia della tensione, e questo arriva anche a persone che erano appena nate, quindi a distanza di 20 anni arriva quest'eco. In realtà Gladio è un'operazione di depistaggio che viene fatta per distrarre l'attenzione da altre strutture di cui parleremo in altre occasioni. Le strutture che hanno fatto la strategia dell'attenzione sono quelle. Gladio col piano solo, a parte che dovremmo aprire tutto il discorso sul piano solo, che tra l'altro ha una posizione a sé stante in quegli anni, effettivamente l'unica cosa che ci dice che Gladio ha avuto qualcosa a che fare col piano solo sono le dimissioni di un gladiatore che era nella guardia del corpo personale di Enrico Mattei e che era uno di sinistra, a proposito del fatto che non era poi questa struttura così impermeabile, Gladio era un figlio militante della sinistra extraparlamentare di lotta continua, che si dimette dall'organizzazione a seguito di quello che è venuto fuori sul piano solo, la lettera di divisioni, e questo è un indizio che in qualche modo forse Gladio era coinvolto. Di fatto io trovo che negli anni successivi Gladio fa due esercitazioni, Lazio 69 e Lazio 70, che potrebbero avere una qualche assonanza, però guardate che Gladio l'abbiamo rivoltata come un calzino, sia in sede parlamentare che in sede giudiziaria. Io mi sono occupato come perito parlamentare e come perito giudiziario. Vi assicuro che è venuto fuori veramente ben poco. Nel complesso, la struttura e la grande maggioranza dei suoi aderenti sono rimasti abbastanza esterni a queste vicende. C'è uno che è stato coinvolto in colpi borghese, c'è un altro che risulta coinvolto indirettamente nell'evasione di Giardettini, ma ecco, siamo a casi, mettiamo insieme 7-8 casi individuali, un po' pochi. Dopo 11 anni di inchieste avremmo dovuto trovare ben altro, come abbiamo trovato invece di altre organizzazioni. Ecco perché lo dico. Servizi segreti italiani, certo che c'entrano, però attenzione, qui c'è un equivoco. L'idea che i servizi segreti italiani volessero una svolta fascista non è così. I servizi segreti italiani hanno usato i fascisti, che si sono anche illusi di un esito di tipo greco, ma in realtà il modello istituzionale del punto d'arrivo voleva essere un altro. Voleva essere piuttosto un regime di tipo gollista, una repubblica presidenziale con un sistema elettorale maggioritario, forse un po' più duro, un po' più rigido sul piano delle libertà democratiche, forse. Io non credo che neanche si chiudessero dell'idea della messa fuori legge del PC che avrebbe scatenato una guerra civile. Molto più probabilmente, da un lato, questo serviva a creare i presupposti di un colpo di Stato di tipo bianco, dall'altro serviva come intimidazione nei confronti della sinistra. Quindi in realtà Gladio e i servizi segreti italiani hanno un gioco diverso in questa vicenda. Ustica credo che sia un episodio che appartiene è alla politica petrolifera italiana e al conflitto che in quel momento opponeva francesi a libici per quanto riguarda il Ciam. Non è una questione chiarita tuttora, la sentenza è stata estremamente insoddisfacente. Io credo che Bologna in qualche modo sia connessa a Ustica come segnale inviato da qualcuno a qualche altro. Difficile capire se si tratti di una risposta o se si tratti di un segnale di tutto. In ogni caso sono cose che hanno una loro collocazione diversa. anche portare la finestra è una collocazione completamente diversa. Io una mia teoria, si è sempre pensato che portare la finestra, le sinistre hanno sempre sostenuto che portare la finestra sia stata una strage voluta dalla Democrazia Cristiana. Nel complesso io mi sono convinto che portare la finestra sia stata una strage contro la Democrazia Cristiana. Gli americani e le destre volevano l'estromissione del PC e del PSI dal governo nazionale. Siamo nel 47. De Gasperi non è che fosse meno anticomunista degli altri, ben inteso, assolutamente no, ma temeva da un lato le ripercussioni internazionali, perché il trattato di pace non era stato ancora ratificato dai russi, temeva sul piano interno che si scatenasse una guerra civile, per cui cercava di mediare in qualche modo. I russi e gli americani invece avevano fretta di concludere. In qualche modo Portella della Ginestra suona come un avvertimento in questo senso e come una pressione per costringere a quello che poi accadrà. Portella della Ginestra accade esattamente 30 giorni prima della Costituzione del governo De Gasperi, il quarto credo, che è quello che estromette i comunisti e i socialisti dal governo stesso. E quindi l'operazione raggiunge il suo obiettivo. Ma comunque siamo in anni molto precedenti alla strategia. Ultima domanda. Dunque, non è che dopo l'Ungheria e la Corea ci si rende conto dell'impraticabilità del conflitto nucleare? Quello in qualche modo già inizia a maturare da quando nel 49 i sovietici annunciano di avere la bomba atomica e da quando nel 52 fanno sapere di avere un bombardiere strategico con autonomia tale da colpire anche le città americane. Quindi già lì inizia a maturare l'idea. Sicuramente i russi nel 52 erano in grado di colpire con l'arma atomica l'Europa. Non è un caso che l'Europa è sicuramente molto più cauta degli Stati Uniti in quel momento. Dopo l'Ungheria e la Corea matura un'altra idea, matura l'idea che l'altro non è disponibile alla guerra nucleare. Ciascuno dei due aveva sviluppato la convinzione della scarsa remuneratività di un conflitto del genere, ma poteva avere la riserva mentale del timore che l'altro arrivasse prima. Corea e Ungheria fanno sapere che nessuno punta allo scopo, che gli americani non intervengono nella crisi ungherese e anzi stroncano l'iniziativa anglo-francese su Suez, quindi facendo capire che l'iniziativa strategica è nelle loro mani e gli europei non devono pensare di poter svolgere operazioni militari come l'occupazione di Suez di iniziativa loro. In secondo luogo, questo fa capire che la politica del containment, è vero che è un containment verso l'avversario perché non venga di qua, ma è un containment anche per noi che non andiamo al di là. La cortina di ferro diventa una garanzia reciprocita per la quale c'è una sorta di riconoscimento di sovranità reciproca, per cui io non intervengo al di là di questa linea e tu non intervieni al di là di qua di questa linea. Questo è quello che matura con l'Ungheria. Perché la corsa agli armamenti continua? L'ho detto prima, perché le armi combattono anche quando non sparano, anche solo per il fatto di esserci, anche per il solo fatto di affermare una superiorità teorica a tavolino. Già quello segna rapporti di forza diversi, tutti al tavolo delle trattative bisogna tenere conto che c'è uno più forte di un altro. O perlomeno bisogna tenere conto che nessuno dei due è più forte dell'altro e che quindi occorre trovare un punto di caduta a metà, perché nessuno è in condizione di imporre all'altro il suo punto di vista. Questo è il senso. Ed è quello che poi continuerà a sviluppare il discorso del welfare state, per il quale la spesa militare diventa volano dello sviluppo, una sorta di keynesismo, sì, ma di tipo militare. Accolgo l'invito per chiarire tutti i miei dubbi. La prima cosa è questa, ho due questioni. Siamo fuori, per quanto riguarda, diciamo, l'opinione pubblica che ne viene a sapere, dai limiti oltre il 74 per quanto riguarda la P2, perché credo che se ne parli dall'80-81, quegli anni lì, però c'era prima. Allora volevo sapere cosa era esattamente la P2. E la seconda questione, che è, mi riguardo perché ho intenzione di lavorare una tesi su questo argomento, volevo partire da una premessa. Il terrorismo che si ha in Quebec negli anni 70, in seguito a un famoso anche discorso di De Gaulle sull'indipendenza, eccetera, può avere un collegamento con questo contesto internazionale o siamo su due piani completamente diversi? Siccome lei ha citato De Gaulle prima come figura in qualche modo centrale. C'era prima lui, poi... Sì, volevo chiedere... Ah, uno, due, tre. Sì, volevo chiedere se innanzitutto avesse un senso parlare dei servizi segreti deviati. Perché a questo punto uno mi dovrebbe spiegare la vera natura dei servizi segreti in uno Stato nel regime parlamentare. E poi vorrei appunto sapere se i servizi segreti avessero potuto agire in maniera differente da come hanno agito nel contesto internazionale che lei ha spiegato. Cioè se avessero potuto optare per una scelta non golpista, una scelta alternativa. E poi qual era il rapporto dei servizi segreti con le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, e se vi erano, in merito alla strategia della tensione, dei conflitti tra i vertici dell'arma, della polizia di Stato, e quindi appunto dei servizi. La mia è solo un'istanza personale, mi ricordo la comunicazione. Siccome io per un socio sono rimasto alla cortina, sono seduto dalle fonti, no? E non possiamo uscire. Vorrei dire, è possibile derogare la casa mia per la mia vera esistenza? Ah, certo, certo, certo, certo. Se si ferma alla fine, se si ferma alla fine gliela diamo. Io volevo che brevemente mi facesse, mi dicesse se poi alla fine di questa guerra della strategia della tensione, mettendoci un po' insieme tutto, guerra fredda, strategia della tensione, c'è stato un vincitore momento a livello morale, a livello comunque di ideologia, perché io vivendo negli anni ho visto che c'è stato un vinto, ho visto che c'è stato un vincitore e vorrei capire se le sue idee coincidono con le mie, se veramente è così. Vale, facciamo questo stop. Allora, la P2. La P2 è una lotta massonica, alla massoneria, al pari di altre organizzazioni simili, svolge un ruolo, ha sempre storicamente svolto un ruolo di partito orizzontale delle classi dominanti, cioè di partito trasversale ai vari partiti che raccoglie in qualche modo le classi dirigenti del paese, che in qualche modo questa è la funzione. In questo senso la P2 è stato classicamente un organismo di partito orizzontale, sia pure interno al campo occidentale. In un momento, che già anticipo una risposta, segnato da fortissimi conflitti interni fra gli apparati dello Stato, proprio durante la strategia della tensione, la P2 assolve, io non credo che la P2 sia mai stata il centro strategico, lo stato maggiore della strategia della tensione. La P2 è stata un'altra cosa, la P2 è stata la camera di compensazione nel momento in cui iniziavano a volare gli stracci e lo scontro interno al, fra virgolette, partito del Golfo, partito americano, iniziava a degenerare, la P2 in qualche modo assicura un momento di stabilizzazione, una camera di compensazione per mediare il conflitto. e matura anche un progetto di uscita dalla strategia della tensione, che è appunto il piano di rinascita democratica, con le sue indicazioni, per quale però vorrei osservare una cosa. Se lo andiamo a leggere uno per uno e vediamo le parti realizzate, avremo qualche sorpresa, perché scopriremo che dei 13 punti realizzati del programma di rinascita democratica, che qualcuno penserebbe essere stato realizzato da Silvio Berlusconi, in tessera 1815 della futura, in realtà i punti realizzati da Berlusconi sono due, i punti realizzati in modo bipartisan sono due, e nove, sia pure non quelli più importanti, sono realizzati dai governi di centro-sinistra. È una constatazione storica che io faccio. Quindi in realtà la P2 non è che abbia pensato a un'uscita golpista, ha pensato a un'uscita contro, e in qualche modo è stata la proiezione di idee che erano discusse in ben altro ambito. Andate a vedere gli atti del convegno internazionale della Trilateral del 1975, pubblicati in volume dalla Franco Anglo, con il titolo I regni della democrazia, mi pare. Vedrete che buona parte delle cose che dice la TV2, che è il piano di nascita democratica, sono presi di lì, vengono di lì. Quindi in realtà c'è un vento culturale internazionale che è un vento di restaurazione rispetto al conflitto sociale che ha investito tutto l'Occidente nei primi anni 70, tra fine anni 60 e primi anni 70, e che si esprime attraverso una ricetta che è rafforzamento dell'esecutivo, soglia di raffreddamento della rappresentanza attraverso sistemi elettorali o a clausola di sbarramento o di tipo maggioritario. Se non sbaglio, il referendum l'ho promosso due persone che si chiamavano Segni e Occhetto, se non ricordo male. Limitazione del diritto di sciopero, limitazione del referendum e sviluppo della televisione privata, dei mass media privati. Questi sono punti che voi troverete costantemente. Quindi c'è una corrente culturale, politica a livello internazionale, che produce queste idee alle quali la P2 si aggrega cercando di svolgere il ruolo di mediazionalità. Poi non mi riuscirà, ci sono le vicende che voi sapete. In realtà, secondo me, lo scandalo P2 scoppia più che a opera del PC, ad opera della sinistra cristiana, e per ragioni in gran parte legate al conflitto bancario, ma adesso non apriamo questo ulteriore discorso. Quindi la P2 è stata questo. State con il giudizio positivo o negativo, il mio non è positivo, ma come pura descrizione storica degli avvenimenti è questo. Poi il terrorismo québécois, sì, in realtà però si è trattato di un episodio estremamente limitato dal punto di vista dell'impatto militare. Fu una cosa che creò un grossissimo incidente diplomatico quando nell'estate del 67 De Gaulle si recò in Canada e fece appello appunto ai francofoni. Per la verità quello che è venuto fuori è stato più un partito francofono che ha avuto un certo successo elettorale. Però dal punto di vista proprio non mi sembra uno degli episodi più significativi dell'ondata di insorgenze, se vogliamo usare questo termine, degli anni 60, 70 e 80. I servizi segreti, sì, questa è una cosa molto complicata, temo di non avere il tempo, mi limito semplicemente a dire che i servizi segreti italiani del tempo hanno operato in forte contrasto fra di loro, non perché ce ne fosse uno più democratico dell'altro, ma semplicemente perché ciascuno ne era disposto a fare da coda all'altro. E c'era un servizio segreto militare tradizionalmente alleato dei carabinieri, un servizio segreto militare interno tradizionale alleato della parte della polizia, l'ufficio affari di Sant'Anna. In questo senso ci sono i servizi segreti deviati? No, non esistono i servizi segreti deviati, perché non esistono i servizi segreti rettilinei. È molto semplice. I servizi segreti sono tali, ed è quello che io cerco di dimostrare in un libro di prossima pubblicazione, i servizi segreti sono tali perché c'è una tacita autorizzazione a compiere reati. Perché se no ci sarebbe già la polizia, non ci sarebbe bisogno, il sottinteso è: noi abbiamo bisogno di sapere certe cose, per sapere certe cose o fare certe operazioni bisogna fare reati. Bene, il segreto serve al fatto di rendere questi reati non conoscibili, per cui il sottinteso è, se mi permettete una formula molto spiccia, occhio non vede, cuore non duole, non fatevi pizzicare e fate quello che dovete fare. Dopodiché, stare a stabilire una soglia interna all'illegalità oltre la quale il servizio è deviato è un esercizio di assoluta sterilità. In realtà i servizi segreti in quanto tali sono una deviazione dello stato di diritto. Poi come se ne esca, questo è un po' difficile, però obiettivamente non c'è un servizio segreto deviato, esiste una deviazione dello stato di diritto che è il servizio segreto. Ultima cosa, vincitori e vinti, discorso complicato che credo risolverete nel corso di questi incontri. Io mi limito ad una cosa, vincitore morale. Ma di solito lei ha mai riflettuto su chi è il vincitore morale? Il vincitore morale è quello che ha perso, sempre. Ha mai visto un vincitore reale preoccuparsi di dire sono anche il vincitore morale? Mai. Quindi in genere il vincitore morale è quello che ha perso. Detto questo, credo che possa bastare. Dunque, allora, siamo a rischio ritardo, quindi ringraziamo tantissimo di nuovo Aldo Giannini. Vi segnalo, dato che Aldo Giannini ha scritto molto su questi argomenti, che lui ha un sito molto aggiornato, molto completo, dove potete trovare i suoi libri, l'elenco dei suoi libri, quindi se volete approfondire potete anche scrivergli, così non è come essere in una lezione pubblica, ma potete saziare la vostra fame di conoscenza. Gli studenti iscritti, se si fermano, facciamo prestissimo, prendiamo la firma e vi consegniamo i materiali per la prossima lezione, che è martedì alle 10.30, sempre qua, grazie mille. Adesso lo diamo. Sono imprigionato. Grazie mille, scusi, adesso consegniamo un... No, fate che... quello suo della comunità nazionale, solo che ci vuole, me lo confermare, ci vuole almeno un professore della facoltà, tu non sei della facoltà, sarà per la prossima, dai. Per il dottorato. Sicuramente c'è il laboratorio lapsus.it. Figura, dai. Metodologico. Questa formula dovrebbe riuscire rispetto a quella che può essere anche, non so, una semplice lezione, invece una forma di laboratorio dovrebbe rendere un po' più spiegata, anche perché nella lezione c'è sempre il passo successivo, esatto. Uno dice parlo, dico una cavolata, ma per fortuna non c'è l'esame. Allora, crea loro uno stato d'ansia, dico.